e ci possiamo accomodare. Che bella attitudine, che bello. Grazie team, bellissimo lavoro, grazie. Ringraziamoli anche con un applauso perché meritano di essere onorati per tutto quello che fanno anche nel servirci domenica dopo domenica. Certo, hanno fatto un grosso errore a non prendere me, ma non è possibile. Oggi dimostrazione, abbiamo un'attività. Sono molto felice di condividere questo tempo con voi. Prego davvero che il Signore possa aprire i nostri cuori, perché anch'io devo ascoltare questo messaggio e devo farlo ancora mio per quello che è, per quanto è importante per me. Vorrei dirvi subito che noi abbiamo varie stagioni di vita, no? Passiamo varie fasi. In questo momento della mia vita, nel mio confronto, sono un po' i miei figli, no? Quindi a volte mi guardano la mattina e mi dicono: papà, sei proprio vecchio. Cioè, ho detto, ma come mai? Cioè, nessuno me lo dice proprio così esplicitamente. Eppure ti confronti con il loro percorso e dici, beh, forse sì, un po' il tempo sta passando. Però io penso che un po' ci si diventa vecchi un po' per decisione, quando ci si lascia andare e si dice, ma vabbè, le cose devono andare così, no, un po' ci si rassegna alle cose. Invece no, io credo che proprio il nostro spirito, anche come credenti, rimane e deve rimanere giovane. La nostra attitudine deve essere un'attitudine di curiosità, di conoscenza, perché noi siamo di natura così e non dobbiamo fermare quell'essere curiosi, no? A me piace molto un po' addentrarmi, studiare un po' di cose, anche se non ho avuto l'occasione di farlo, quindi mi piace approfondire degli argomenti. Quindi un'altra cosa che succede spesso a casa mia è che io non posso guardare più la TV. Cioè, qualunque appannaggio completo ormai dei bambini, anche quando ho tempo di guardarla mi passa la voglia perché sono troppo stanco, dicono vabbè, non vale la pena. Allora ho scoperto, però, quindi non mi impegno tanto più a vedere film o serie perché sono troppo impegnative, non ce la faccio, quindi cerco qualcosa per conciliare il sonno. Quindi avete mai visto Rai Scuola? Qualcuno di voi guarda mai Rai Scuola? Romina. Beh, vedi, siamo in due, vedi? Facciamo audience noi. Rai Scuola è un canale bellissimo, cioè ci sono i corsi di inglese, ci sono le attività anche interattive, no? Un po' ti insegnano delle cose. E poi la sera, proprio argomenti leggeri, fisica quantistica, cioè cose proprio... Allora, una volta ero lì, ho detto, ma mi addormenterò. No, non mi sono addormentato, anzi è stato lo spunto per approfondire un argomento che oggi vorrei un po' spiegarvi. Ed è questo studio che, insomma, risale un po' agli studi di 100 anni fa, quindi non proprio recentissimi, in cui si è iniziati a teorizzare sulla fisica in una maniera differente, su quello che è il piccolo, il microscopico, no? E quindi ho portato questa scatola perché di tutte le teorie, no, un po' studiate riguardo alla fisica quantistica, c'è una teoria che riguarda il vuoto. Quindi quello che vediamo qui in questo momento è una scatola vuota, non c'è niente, non c'è trucco, non c'è inganno, signori. È vuota, completamente vuota, almeno per quello che noi vediamo. Però in realtà non è proprio così, perché quando noi osserviamo questo, vediamo solo quello che riusciamo ad osservare in questo momento, però secondo questa teoria, una delle teorie, ripeto, quindi no, vi parlo da appassionato, non da studioso, se dilatassimo il tempo, cioè proprio lo allargassimo, lo rallentassimo in una maniera che noi non siamo in grado neanche di concepire, potremmo vedere che in questo spazio vuoto, in realtà non è vero che non è vuoto, ma c'è un'attività di particelle che riguardano la materia. Quando la materia ha a che fare con il tempo, si sprigiona energia. E questa cosa è fantastica, perché per quanto noi vediamo qui vuoto, in realtà andando verso questa teoria, noi potremmo vedere questo video qua. è un po' artistico come rendering, però in realtà è così. C'è rilascio di energia e restituzione di energia. Questa attività di particelle è continua ed è un'evoluzione che noi non possiamo neanche immaginare, ma è in questo spazio ed è in questo momento. E quindi, quando ho pensato a questo, poi sono andato a studiare i cosmologi. Quando hanno confrontato questa teoria, i cosmologi sono gli scienziati che si occupano degli spazi infiniti, quindi non del microscopico, ma del macroscopico. E i cosmologi dicono, e noi lo sapevamo già, perché quando voi state pensando che qui si sprigiona energia nel vuoto, è così, perché l'universo è in continua espansione ed è ancora in attività, perché è nato da un momento ben preciso che ha generato un'energia in uno spazio vuoto e quel vuoto ha espanso tutto l'universo. Non è stato in un momento casuale, ma è stato un momento preciso in cui gli scienziati questo lo chiamano inflazione cosmica, cioè qualcosa ha spinto, accelerato questo movimento improvviso del vuoto e ha espanso l'universo, quello che noi vediamo oggi. E gli scienziati dicono è nato proprio da lì, da quel momento in cui alla fine qualcosa è intervenuto e ha accelerato tutto e boom, si è creato quello che noi vediamo e che osserviamo ancora oggi in espansione. Perché vi sto dicendo questo? Perché poi dopo i fisici e i cosmologi sono arrivati i teologi e hanno detto ma noi lo sapevamo già, perché in Genesi, lo vediamo insieme, Genesi 1, leggiamo questi versi meravigliosi. La terra era in forma e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, sia luce, e luce fu. Ora, quel vuoto... Guardate un po' che bello, c'è un termine tecnico che è riconosciuto dai fisici e dai cosmologi, il vuoto. Quel vuoto che non era per niente vuoto, ma era pieno di attività e che ha creato tutto quello che noi vediamo. E che cosa ha generato questa inflazione cosmica? Una parola. Una parola, la leggiamo insieme, ed è questa in originale ebraico. C'è la slide con il testo originale ebraico. Ehi ho! Ehi ho! E questo, boom, ha creato tutto quanto. Non è meraviglioso? Non è fantastico? Questa cosa a me ha scioccato totalmente, perché mi ha fatto pensare quanto tutto quello che noi osserviamo e vediamo è straordinario. È molto più grande di quello che noi riusciamo a capire. E a volte il punto è, ce ne sono un po', però uno sicuramente è molto importante, almeno uno lo dobbiamo constatare insieme. Quando tu ti rivolgi a una persona che vedi che non capisce molto bene le cose, dici ma questo in testa non c'ha niente, non è vero. Non lo dire più, chiedi perdono. Perché non è vero, c'è attività, c'è molta attività, più di quello che puoi pensare. E il secondo punto è che quello che abbiamo appena visto lo possiamo tradurre in un verso che noi conosciamo molto bene, che è in Ebrei 11:1. Lo leggiamo insieme? Leggiamolo con questa consapevolezza di quello che abbiamo appena capito da questa teoria che abbiamo visto insieme. Allora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola. Dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Quindi se vogliamo un po' semplificare questo verso e renderlo un po' pratico per noi, quando pensi che la tua vita sia completamente vuota e non sta succedendo niente, niente, sappi che Dio è all'opera. Sappi che Dio è all'opera. C'è qualcosa che si muove qua dentro che tu non vedi, ma che sta succedendo. Ed è dimostrato, è dimostrato. Per spiegarvi un po' anche quello che possiamo dire riguardo a questo, anche su delle storie del Vangelo che conosciamo molto bene, ho preso solo tre esempi particolari, tre storie, per capire com'è la dinamica della fede. Come funziona poi, invece, poi praticamente? È vero che qualcosa si muove, però io non lo vedo. Come faccio a capire? Vediamo questi tre esempi, queste tre storie. Sono legate a Marta, a Bartimeo e Jairo. Per ricordarvi un po', ci sono i riferimenti dei versi. Noi li leggiamo perché sono delle storie che conosciamo bene e anche possiamo avere il tempo di leggerle poi a casa. Vi ricordo di Marta. Marta è la sorella di Lazzaro. Vi ricordiamo il contesto. Lazzaro si è ammalato e Marta dice: per favore, so che Gesù è nei paraggi, andatela a chiamare perché lui sa che cosa deve fare. Capite la fretta, no? Che qui si è innescato. Dice: andate a chiamare Gesù perché Gesù sa che cosa deve fare. E Gesù, sapete, con molta calma sta lì, dice: sì, aspettiamo perché non è il momento. E poi di fatto poi Lazzaro muore. E i discepoli dicono: vabbè, allora che facciamo? Andiamo? Dice: no, adesso è il momento in cui possiamo andare perché Lazzaro si è addormentato. E i discepoli dicono a Gesù: quindi se si è addormentato sta bene. Cioè, dicono letteralmente così. Queste storie sono tragicomiche. Se ci vai un po' a caso e vai a scavare un po', vedi che ci sono tante dinamiche anche di brani che sono stati riportati nei Vangeli, che dice: ma poverino, perché li dovevamo dire sti fatti? Potevamo salvare la faccia dei discepoli? No, perché noi siamo così. Noi non sempre capiamo quello che Gesù sta dicendo e quello che Gesù sta per fare. E poi Gesù infatti arriva a Betania e Marta lo incontra e dice: però Gesù, se tu fossi stato qui non sarebbe successo. E Gesù dice questa frase che poi vedremo meglio dopo: sì, se credi vedrai la gloria di Dio. Ricordate? Ok. Bartimeo è un cieco nato. È tutta la vita che aspetta che qualcosa succeda nella sua vita, per la sua malattia, no? Perché sta lì, è povero, ha solo la possibilità di chiedere l'elemosina. Cosa succede? Ha sentito che c'è Gesù e inizia ad urlare, grida e lo chiama. E poi abbiamo Jairo. Jairo anche lui ha la figlia malata e dice... e lui è il capo della sinagoga, quindi è una persona importante della città. E Jairo dice: vabbè, andiamo da Gesù, perché sicuramente lui può fare qualcosa. Sapete com'è? Mentre lo incontra, poi c'è la donna del flusso di sangue, una perdita di tempo, no? Cioè non finiva più questa cosa, non riusciva ad arrivare proprio a casa di Jairo. Infatti la bimba muore. Però poi sappiamo un po' come va a finire per tutte e tre le storie. C'è un problema comune in tutto questo, in tutte queste storie, che è uno schema ricorrente, che vediamo qui. C'è sempre un contesto, poi c'è un tempo di attesa e il cambiamento. Il tempo di attesa è quello che proprio a noi non ci piace, non è proprio naturale per niente, perché siamo fatti così, non dobbiamo biasimarci, e anche Dio lo sa questo, sa che Lui... abbiamo dei problemi al riguardo, però quello che noi possiamo fare anche in questo è capire quali sono le dinamiche che scaturiscono in questi tempi di attesa, quali sono i sentimenti che si diffondono un po' nella nostra vita, i nostri pensieri. Solo per citarne qualcuno, siamo presi dalla paura, vero? Quando succede qualcosa che noi non possiamo controllare, siamo presi dalla paura. Dalla delusione, la disperazione, perché dici: va bene, su questa cosa non si può fare più niente. No? Umanamente dice qui finisce. E poi arriva il dubbio, l'incredulità, il senso di abbandono, perché ci sentiamo come se qualcuno non si curasse più di noi, eppure siamo figli di Dio, eppure sappiamo quello che Dio è capace di fare, quello che Lui sa fare, eppure entriamo in questa crisi profonda nello stesso meccanismo di sempre. È ricorrente e succede sempre così. Come possiamo interrompere questo circolo vizioso? Come possiamo osservare meglio quando le cose sembrano non avere senso e tutto è vuoto? Ho preso solamente dei suggerimenti che vi giro così, perché davvero sono frutto più della mia esperienza e sono convalidati anche dalla parola di Dio. Quindi ve li dico così proprio con cuore aperto, perché sono proprio frutto di cose che sono state vissute. Una cosa che noi possiamo fare quando cadiamo in questi tempi di attesa in cui sembra non succedere assolutamente niente, la prima cosa da attivare è l'ascolto. Anche qui no, ci viene incontro la parola che ci dice che la fede viene dall'udire, dall'ascoltare. L'ascolto è importante, è il momento in cui noi dobbiamo decidere che è vero, non sappiamo come affrontare questa situazione, andiamo da Gesù a cercare quello che Lui dice, quello che Lui sa, quello che Lui conosce, che io non so. Perché ci sono tante cose che io non so, tantissime, e devo capire, devo imparare da Lui, devo prendere quello che Lui ha in mente per me, anche in quell'esperienza, in quella stagione, in quel tempo speciale, che è l'inizio poi della prova, che chiamiamo prova così, però è tutta bella angoscia, sofferenza, dubbio, delusione, è pesante, molto pesante. Ascolta, non ti isolare. Non restare da solo, vai da Gesù. La prima cosa che ti viene da fare è stare un po' per conto tuo, non vuoi sentire niente, non vuoi pregare, non vuoi parlare con nessuno. No, è la trappola. Devi attivare immediatamente l'ascolto. E il modo in cui Dio parla, in genere sono sempre due. Uno è il Logos, cioè prendi la Bibbia, la parola, e Lui è la rivelazione, la parola. Lui si rivela attraverso la Bibbia. Non perdere tempo a cercare delle soluzioni su Google. Prendi la Bibbia. C'è qualcosa che puoi imparare dalle esperienze degli altri. C'è qualcosa che Lui vuole dirti attraverso questa rivelazione universale che è per tutti e per tutti i tempi. E poi c'è il Rema. Il Rema è un modo in cui Dio parla a te personalmente ed è una rivelazione per te e soltanto per te, per una circostanza precisa. Ascolta. Una cosa che a me è successo in più di un'occasione, quando si è aperto un sistema di crisi, una situazione molto difficile, io andavo dal Signore e poi il Signore mi dava una parola specifica che io non capivo assolutamente. Però quella era un rema ed era la parola che avrebbe indirizzato tutta la circostanza. Quella è la parola che ci serve da bussola per orientarci quando le cose non le capiamo più. Quella parola è indispensabile ed è uno strumento per te e ti viene dato, ne hai diritto perché sei figlio di Dio, quando le cose non vanno. Ascolta, perché quella parola ti darà la direzione. Tu non capirai dove stai, sei in un mare aperto, la tempesta, non vedi niente, ma se hai una bussola tu arriverai al porto. E quel rema è importante. C'è stato un tempo in cui abbiamo affrontato una situazione di famiglia molto delicata, riguardava la salute. La salute di Sara. E quando abbiamo pregato per questo, la parola che ho ricevuto e che non avevo capito è solo vento. Ed è stato così, perché a distanza di mesi tutta quella situazione è rientrata, è stato un rumore fastidioso che ha bloccato tante cose che avrei dovuto fare, ci ha rallentato tantissimo, ci ha frenato tantissimo, e invece quella parola ci stava dicendo: non ti preoccupare, è solo rumore, è solo rumore. Quindi quando tu entri in una stagione di crisi, e se sei in una stagione di crisi, fai qualche passo indietro, cerca di ricordare che cosa ti ha detto Dio quando è iniziato tutto. Perché quello è il modo in cui Dio ti sta indicando la strada per il cambiamento. Le parole rema che hanno ricevuto Marta, Bartimeo e Jairo, le abbiamo sentite prima: se credi vedrai la gloria di Dio. Ora, per Marta dice sì, vabbè, però è stato così, l'ha accolta, perché poi quando sono arrivati davanti al sepolcro hanno pianto, ma Lazzaro è uscito vivo, Lazzaro è risuscitato. A Bartimeo Gesù dice: che cosa vuoi che io ti faccia? Gli sta dicendo: guarda che io mi preoccupo di come stai, io vedo quello che sta succedendo, io ci sono. A Jairo dice: non temere, solo abbi fede e sarà salva. Riguardo la figlia, e gli avevano appena detto che tua figlia è morta. Ora, ci sono parole che sentirai da tutti, però per favore ascolta. Ascolta chi devi ascoltare, perché è molto importante, è fondamentale che tu abbi quella direzione dove Dio ti vuole portare. Come direbbe la Pausini, resta in ascolto. È una profetessa pure lei, non lo so. Altro consiglio pratico: rallenta. Rallenta. Se tu vuoi osservare questo fenomeno, devi rallentare il tempo. Proprio è così. Infatti è stata costruita una macchina gigantesca per creare il vuoto assoluto e osservare che cosa succedeva. E c'è questo enorme strumento, vabbè, una macchina gigantesca, e poi c'è solo uno strumentino con un oscilloscopio stupidissimo che fa... Cioè proprio è sciocco guardarlo, dice: ma com'è tutta sta macchina per vedere questa cosa qui? Sì, è la dimostrazione che nel vuoto c'è attività. È solo attraverso la simulazione del rallentamento, della dilatazione del tempo, è possibile osservare questo fenomeno. Ora, noi abbiamo sempre fretta quando ci troviamo davanti a una sofferenza, perché fa male. La sofferenza, ci ha spiegato anche Sara, ci paralizza fisicamente, cioè ci impedisce di agire, ci impedisce di prendere decisioni. Noi ne vogliamo uscire il prima possibile. È così, ma va bene. Però non va bene se vogliamo vedere il fenomeno. Se vogliamo vedere la dinamica della fede in azione, dobbiamo rallentare. Quando noi rallentiamo, vediamo che Dio inizia ad operare in modi che noi non capiamo. E il modo in cui Lui l'ha fatto con queste tre esperienze, in cui Lui non è andato di corsa a resuscitare Lazzaro, non è andato dal cieco, sei guarito, è passato così, si è detto vai, guà, sei guarito. Non è andato da Jairo e ha detto sì, sì, guarda, ora vai a casa perché è tutto a posto. No, no, ha detto: se tu credi, vedrai, io verrò a casa tua e tua figlia sarà guarita. C'è un'azione pratica, una dinamica che Gesù si è preso il tempo di agire nella vita di queste tre persone. Non è andato di fretta, neanche noi dobbiamo andare di fretta. Ci costerà tanto, ma proprio tanto, ma dobbiamo aspettare. Perché Gesù ha fatto questo? Perché non ha detto: ok, basta, facciamo così, guarito, risuscitato, tu alzati e cammina. No, no, si è preso il tempo perché La questione è il grosso paradosso di noi cristiani del mondo occidentale, permettetemi questo, perché noi vogliamo una cosa e pretendiamo quella cosa e vogliamo che venga fatto come noi desideriamo. Il nostro progetto nella nostra testa è sempre: io voglio questo, ho questo problema, si può risolvere così. E quindi noi pretendiamo da Dio che Lui ci porti qui. Però Lui non ci porta qui, o forse più delle volte non ci porta qui dove noi vogliamo, ma ci fa fare un altro percorso. E quel percorso avviene proprio in questo tempo di rallentamento, di attesa, in cui Gesù viene e non gli importa della soluzione, ma gli importa della relazione con te. Lui viene e si siede accanto e dice: Marta, se tu credi vedrai la gloria di Dio, però per me è importante stare vicino a te, piangere con te. Gesù si è preso il tempo di piangere con Marta e Maria per il lutto che stavano vivendo. A Lui importa come ti senti, a Lui importa quello che stai passando. Non è vero che Lui non fa niente. Lui sa come stai e si vuole prendere il tempo di parlarne con te. Si siede vicino al cieco Bartimeo e gli dice: che cosa vuoi che io ti faccia? Ha cambiato le sue priorità e ha detto: io sono qua, che cosa vuoi? Sembra la domanda più sciocca da fare. Com'è, non vedi che sono cieco? Forse aveva bisogno di ben altro, di conoscere Gesù, di fare amicizia con Gesù, di conoscerlo. Infatti poi c'è la testimonianza bellissima che segue dopo, no? Di Bartimeo, è bellissima, leggetela anche a casa. Tutto questo anche con Jairo, no? Ha detto: Jairo, andiamo a casa, andiamo a pregare insieme. Tutti ridevano, tutti dicevano: ma che vuole questo qua? Guarda che è morta, non c'è più niente da fare. Ma Gesù si è preso il tempo di stare con la famiglia di Jairo, con Jairo e sua moglie, ha detto: venite sopra, mandate tutti via, preghiamo per la bambina. E la bambina si è alzata. Era quello solo lo scopo? No. No. Rallenta. Rallenta. Rallenta. È brutto, ma devi rallentare. Perché solo così potrai vedere dove Dio veramente ti vuole portare in una circostanza. Tu non la puoi evitare la circostanza. Io non posso evitare i problemi, non posso salvarmi da tutto, però io so che Gesù è vicino a me e vuole fare quel percorso con me. Sì? Sì? Ci siete? Ultimo tip. Cambia. Questo è il risultato che ci aspettiamo, no? Il cambiamento. Però in realtà in quel momento, nella vita di queste persone, non è solo arrivato un miracolo. È bellissimo e possiamo leggerne la storia e glorificare Dio perché Dio è il Dio dei miracoli. E Lui li fa anche quando noi glieli chiediamo. Però Dio è intenzionato a cambiare il nostro cuore. Proprio in questa attitudine di relazione, non di trovare la soluzione, di relazione. Il cambiamento arriverà, ma non sarà per forza quello che dici tu. E sapete, c'è stato un tempo in cui la mia vita era un vicolo cieco. Davvero, io non sapevo più dove andare. Era proprio chiusa, non sapevo la strada. Sapete quando vi trovate in un posto ed è chiuso, non puoi andare né a destra né a sinistra, non puoi fare niente. E tutti che possono darti consigli e dirti fai questo, fai quest'altro, ma io non potevo andare avanti. E dicevo, ma io come faccio? Io lo so che devo andare dall'altra parte, che devo trovare un'altra strada, che c'è una soluzione, ma non mi posso muovere da qui. Sapete, proprio un senso di immobilità che è diventato un problema fisico. E io ho detto, Signore, che cosa devo fare? che cosa posso cambiare di quello che mi sta intorno per trovare una soluzione? Perché era da tanto tempo che cercavo una soluzione, ma non la trovavo, non c'era modo di trovarla. Sapete che cosa, qual è stata la soluzione? Che questa parola, cioè se le cose non cambiano, devi cambiare tu. E io questo ho fatto. Ho cercato di cambiare io, perché ero io lì la causa del problema. Io dovevo cambiare per vedere le circostanze cambiare. E se ti aspetti che qualcosa deve cambiare, inizia a cercare se c'è qualcosa che devi cambiare tu, nella tua vita, nelle tue relazioni, nelle circostanze che stai vivendo. Forse sono cose che ti opprimono, che ti hanno fatto perdere il controllo, e così succede. Però Dio c'è, è accanto a te, è in una parola potente verso di te, sta dando, parlando parole potenti, che portano vita e vita ancora adesso. E lo dicono tutti, gli scienziati, i cosmologi, i teologi. Prendi quella parola, perché è vita per te. Prendi il tempo di capire cosa Dio vuole fare in questo tempo di prova con te, perché vuole stare con te. Prenditi il tempo, perché il cambiamento sta arrivando. E forse non sarà quello che ti aspetti tu, ma la fede, lo possiamo rileggere per favore di nuovo? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Che non si vedono, ma ci sono e sono concrete. Abbiamo la possibilità di comprendere la dinamica della fede attraverso questo. La possiamo fare nostra. Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è con noi. Dimentica anche pure tutto il resto di questa storia o del messaggio di oggi. Gesù è accanto a te, in azione e sta operando ora. Sta operando ora. Per favore, possiamo alzarci in piedi? Io credo solo a questo, perché lo prendo per me. Io ho bisogno di salire un gradino in più rispetto a quello che ho capito della fede. Vuoi salire con me? Vuoi fare questo passo con me? Se è la tua decisione, chiudiamo gli occhi, chiudiamo tutti gli occhi, prendiamoci questo tempo per dire: Signore, io rinnovo la mia decisione di credere in te, anche quando c'è tutto questo dubbio, questo rumore, tutta questa interferenza. Io voglio ascoltare te. Io voglio stare con te. Non so dove mi vuoi portare, ma io voglio venire con te. Se non ho capito tante cose, fino ad oggi io voglio capirle di più. Dammi la saggezza, l'intelligenza di capire di più. Io voglio salire di più nella conoscenza, nella consapevolezza di chi tu sei, di quello che tu vuoi fare. Signore, quante persone sono qui che hanno bisogno di un miracolo? Quante? Tu le vedi tutte, prima di me, prima che possano alzare la mano, possano dire: io ho bisogno, io lo so che hanno bisogno, e lo sai anche tu. Signore, opera, opera, ma fallo come vuoi tu, te lo chiediamo nel tuo nome, Signore, fallo come vuoi tu. Fallo stando vicino a noi, Signore. Resta sempre vicino a noi, Gesù. Prenditi cura di quello che tu vuoi fare, Signore. È tuo, ti abbiamo dato tutta l'autorità, Signore. È tuo, te lo rilasciamo, Signore. lodiamo a te, lodiamo a te, non lo tratteniamo, Signore, non tratteniamo le nostre certezze, non tratteniamo le nostre sicurezze, Signore, lo rilasciamo a te. Opera, Gesù, opera come tu hai sempre fatto. Tu non sei diverso. E tu sei qui in azione, ora. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo un tempo anche della cena del Signore adesso. E possiamo prendere proprio ora un momento per riflettere sulle nostre vite, qual è il tipo di relazione che stiamo avendo in queste stagioni, difficili o belle che siano, non so qual è il tuo tempo, però prenditi ora un momento per riflettere, una nuova consapevolezza, chiedi a Gesù, voglio stare con te, qualunque cosa succeda, io credo in te, so come vuoi fare tu. Sono io tutti invitati a prendere il pane e il vino, raccomandiamo che lo possiate fare se siete battezzati, avete scelto da adulti di seguire Gesù e che sia un tempo di riconciliazione, di abbandonare i pensieri che hanno fatto tanto rumore nella nostra vita, non ci hanno fatto vedere che Dio è all'opera. Prendiamoci questo tempo. E prendiamo anche un tempo per ringraziare e per dire grazie che ci sei, grazie perché senza di te non sarei qui. Amen.